Buonasera, ringraziamento per l'attenzione, ringraziamento a Walter per la regia. Ricordiamo Caccia Vostra, siamo in attesa dei vostri contributi. Una cassetta, 3 minuti, da martedì prossimo. Ok, martedì prossimo alla stessa ora? Grazie a tutti. Sì, e se per caso martedì proprio non potete, o se volete risentirci, o se per una volta ci avete perso, potete ritrovarci in differita domenica alle 13.30, sempre sui canali di Radio Popolare. Buonasera.